di Giovanni Minoli. America first. America first. American boy. L'America per prima, lo ripete due volte Donald Trump e non cambia di una virgola, anche se da qualche minuto è il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Il nuovo inquilino della Casa Bianca è un miliardario con un conflitto di interessi gigantesco. Un nuovo capo di Stato che ha tenuto un discorso che ha messo in allarme mezzo mondo, promettendo isolazionismo e protezionismo. Sin dalle prime parole si capisce che il nuovo inquilino della Casa Bianca è pronto a cancellare il suo predecessore, non a governare ma a rivoluzionare l'America. Presidente Romano Prodi, buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie. Senta, dopo il discorso di Trump, lei sulla stampa di oggi dice una cosa forte: c'è una rottura senza precedenti nella storia americana. Perché? Senza precedenti, l'America è stato il campione dell'universalismo, diciamo così, di politiche a rete su tutto il mondo. Adesso improvvisamente dice America first, cioè siamo solo noi e basta, ci interessa il nostro problema, ci interessa il nostro sviluppo e gli altri si arrangiano. Ecco, però già con Obama l'Europa era marginale nella visione americana, con Trump semplicemente il distacco è definitivo. No, Obama si interessava poco dell'Europa, sì, perché vede, tutti i presidenti americani avevano avuto legami europei o per la loro famiglia o per lo studio. Obama era globale, cioè non aveva nulla a che fare con l'Europa. Lo ha capito solo negli ultimi mesi, dopo il Brexit. Dice, ma tutto sommato avevamo degli alleati, curiamoli ancora. Li abbiamo dimenticati. Ecco, senta, lei oggi, sempre nell'intervista, dice bisogna prendere Trump in contropiede. Che vuol dire? Vuol dire che finora lui picchia, dice, fa, disfa, e qui non c'è nessuna reazione politica coordinata. Io la prima cosa che pensavo era che ci fosse un'immediata convocazione a Bruxelles degli organi europei per studiare che cosa fare, per reagire, e invece niente. Ecco, ma prenderlo in contropiede, secondo lei cosa bisognerebbe fare subito? Beh, prima di tutto ci sono alcune mosse specifiche. Io credo che noi abbiamo adottato le sanzioni contro la Russia. Togliamole. Contro il nostro interesse. Lo abbiamo fatto per solidarietà. Certo. Inteso o malintesa, non lo so. A questo punto, quello va a trattare con la Russia e tiriamo via le sanzioni. Facciamo prima Seconda noi. Cosa, questo dice, la NATO non conta più. Il suo ministro della difesa dice conta ancora, ma vedremo. Comunque, lui dice, la NATO non conta più. E a questo punto si fa il nucleo di esercito europeo, abbiamo già tante forme di collaborazione, cosa manca a queste forme di collaborazione? Un'autorità unica, cioè manca il comando, cerchiamo di vedere di costruire un comando unico europeo. Senta, Presidente, ma l'Europa senza l'ombrello della NATO non può essere anche destinato o correre il rischio di sciogliersi nei nazionalismi? No, ma prima di tutto l'ombrello della NATO lo ha chiuso, lo vuol chiudere Trump. Certo. Non vuol mica chiudere europei, no, gli certo. europei. E poi, anzi, la penso proprio l'opposto. È la NATO che ha dato, ad esempio, a tutti i paesi dell'est Europa, quando c'era l'unificazione, quando abbiamo fatto questa grande operazione di mettere l'Europa assieme, questi volevano come priorità la NATO perché gli assicurava, li riassicurava. La protezione. E la NATO si rallenta, si riassicurano con l'Europa. Certo. Senta, ma invece che dall'euro, l'Europa allora, diciamo, ha una speranza di dare dei segni di vita a partire da euro sì, ma un esercito comune, insomma, euro più esercito. Euro più esercito, più politica europea. Naturalmente. Lei mi ha fatto la domanda sull'esercito. Sì. Ma io le rispondo, l'Europa ha sempre dato al mondo l'esempio di solidarietà, di welfare state, di andare avanti per la protezione dei diritti umani, civili, anche questa Europa. Poi se lei mi fa la domanda della difesa, io le rispondo con la difesa. Certo, certo, ma quindi dopo l'Europa guida tedesca ed economia, avremo un'Europa guida tedesca anche sul piano militare, insomma sempre di più un'Europa germanizzata. No, su questo non è vero, perché la Francia ha l'arma nucleare. La Francia è nel Consiglio di sicurezza con diritto di veto, in questo campo la Germania ha ancora bisogno della Francia, quindi so, sono altri problemi che spingono la Germania a una propria politica autonoma, e sono quelli economici soprattutto in questo momento. Senta, ma l'Europa, che non, un po' l'ha detto, certo, che non ha reagito al discorso di Trump, è un'Europa però che decreta la sua inerzia, imbelle, insomma, la sua fine anche in qualche modo. Eh sì, questo è la rinuncia a quella che era l'Europa, la certo, parte, a se l'Europa stessa, in cui certo, il Consiglio si rappresentava degli Stati, valgono infinitamente più della Commissione, che rappresentava l'Europa unita e sovranazionale. È un'Europa diversa da quella di qualche anno fa, non Senta, è la mia Europa. Certo, l'Europa, Trump nella sua campagna e anche nel suo discorso è sembrato ovviamente sì populista, protezionista, esilazionista, però anche in qualche modo keynesiano nella risposta ai dimenticati dalla globalizzazione, è vero o no? Se tu ti chiudi dentro alle frontiere, vuoi crescere, devi essere keynesiano. Mi sembra assolutamente logico. D'altra parte, keynesiano cosa vuol dire? Vuol dire spingere l'attività economica pubblica con una domanda molto forte. Lo ha fatto anche Obama con la riforma sanitaria, lo ha fatto aiutando l'industria, cioè keynesiani. Poi negli ultimi anni lo sono diventati un po' tutti. Ecco, professore, lei dice che per riprendere contatto con gli interessi della classe media è necessario un riformismo attivo dell'Europa. Mi fa un esempio di riformismo attivo? Riformismo attivo vuol dire, da un lato, fare insieme gli atti keynesiani che lei ha citato. Non abbiamo un sistema energetico comune, non si collegano fra di loro i vari tubi per l'energia elettrica, il wifi, tutto questo. E dall'altro c'è il problema di armonizzare in modo attivo tutti i sistemi di welfare, di sanità, di protezione degli individui, ma qui li abbiamo abbandonati. Completamente. Li abbiamo abbandonati. Senta, ma Presidente, ma lei sulla stampa fa un esempio concreto di questo riformismo attivo. Parla di quando l'Europa ha multato la Apple, ma la Apple poi ha pagato? No, però figuriamoci se ha pagato. Ha cominciato una causa che finirà chi lo sa quando, forse nel prossimo secolo. Ma questo che volevo dire non era solo il fatto che ovviamente un'impresa con i suoi avvocati resiste, certo, ma l'Europa fa i muscoli forti perché multa un'impresa di 13 miliardi e questa ne ha 250 miliardi in cassa. Sì, appunto. Quindi voglio dire, è cambiato il potere. Certo. Cioè, capisci, quando l'Oxfam dice 8 persone posseggono come 3 miliardi e mezzo, non dà mica un messaggio di carità cristiana, dà un messaggio di potere. Certo. È cambiato il potere. Assolutamente. E lo dobbiamo riequilibrare. Senta, ma questo Trump però che parla di protezionismo, secondo lei il protezionismo può avere un orizzonte lungo? Ma Trump, poi il protezionismo, deve stare poi attento perché la Cina c'ha una quota di debito americano spaventoso, le imprese americane sono legate alle loro filiali in Cina o ai loro fornitori cinesi. Trump ragiona come... stai fermo che io ti picchio. No, ma il protezionismo è una cosa terribile. Sì, sì, può darsi che quando comincia uno vanno avanti tutti. Certo, è a cascata. Senta, il discorso di Trump, nel suo discorso Trump abbandona completamente, definitivamente il Medio Oriente e l'alleanza tra Iran e Russia, è così? Abbandona, no. Non ne parla. Sostanzialmente lo mette nella sua grande alleanza fra America e Russia. Ah, no. Cioè si dividono loro le sfere di influenza, come all'epoca della guerra fredda, insomma. Esattamente, questo è il suo vero, e la sua alleanza con la Russia è strumentale per il Medio Oriente. E quindi in un certo senso questo è vero, cioè l'alleanza con Putin consegnerà, diciamo, il Medio Oriente alla protezione o comunque a Putin. Questo lo si vedrà in seguito. Certo. Le forze interamericane reagiranno. Un fatto però è certo, e lo dico da anni, se non c'è un minimo accordo fra America e Russia, la pace in Siria non si potrà mai fare. Quindi se il Medio c'è Oriente è difficile lo stesso, ma se non c'è l'accordo è non arriverà mai. Ma si potrebbe realizzare in questa ottica il sogno di De Gaulle dell'Europa dall'Atlantico agli Urali? Proprio no, perché dagli Urali ci va gli Stati Uniti, se Trump ha ragione, non ci andiamo mica noi. Il sogno di De Gaulle era una grande Europa attiva, che fermenta e che va avanti, anche se lui poi la vedeva nei nazionalismi, no? Sì. Che è così forte che attrae il rapporto con la Russia in situazione di parità, anche se la Russia era militarmente più forte. Ma, no? per l'Europa... Adesso si rovescia le cose, sì. Non è più dall'Atlantico agli Urali. Per quello che io dico, bisogna fare una controffensiva e avere rapporti con la Russia, perché noi abbiamo bisogno della Russia e la Russia ha bisogno di noi. E quindi l'Europa con la Russia? Certo. Siamo complementari, siamo vicini, siamo europei, la storia ci ha diviso e ha fatto tanti malanni. Vediamo di rimediare a questa storia. Senta, ma intanto in Italia cosa vuol dire che è arrivato il tempo dell'Ulivo 2.0? No. Niente. Buono. Non ne parliamo di questo. Ho detto che non è impossibile, è realizzabile. Cioè, cosa voglio dire? Di fronte alle cose che abbiamo detto in questa breve conversazione, sì. Occorre un grande riformismo, certo. Occorre mettere assieme le forze che vogliono questo riformismo, che vogliono che la globalizzazione si definanzi e sia più attenta ai problemi della gente, e questo uno non lo fa con alleanze spurie, con piccoli giochi politici. Senta. Ci vuole una ridiscussione, un riapprofondimento. Certo. Tra tutte le forze in qualche modo riformatrici. Senta, Presidente, un'ultima cosa. Lo chiami Ulivo, sì, lo chiami come vuole. Senta, ma c'è un'ultima cosa che dimostra che la storia veramente è cambiata, che il mondo cambia. Sulla stampa oggi, le due pagine, anche Berlusconi dice delle cose in qualche modo, almeno su certi punti, simili alle sue. Il mondo veramente cambia. Ah, non sapevo che anche Berlusconi avesse fatto un'intervista sulla stampa. Ah no, allora gliela consiglio. Beh, comunque, se diciamo alcune cose simili, poi le abbiamo anche dette simili. Altre ci hanno fortemente diviso. Però, non è che in politica se uno dice nero l'altro dice bianco. Questa è la mentalità italiana. Certo, no. Vabbè, quindi gli riconosce uno status di politico puro. Va bene. L'abbiamo sempre fatto. Grazie Presidente, 800 24 00 24 per le telefonate, 349-238-6666, gli sms. C'è una bolla, Mario? Una bolla? Sì, ma ricordo a tutti che abbiamo una scadenza, domani dovrebbe essere, cioè la consulta, passiamo alle tristi cose italiane. La consulta deve decidere appunto sull'Italicum. Sono 9 i punti in discussione, per noi è un appuntamento fondamentale, perché vita delle Camere dipende dalla decisione dei giudici costituzionali. Sono, dicevo, 9 punti. Il problema è di sapere se riescono a trovare la quadra per fare la legge elettorale e mandarci a votare. Ma c'è la discussione se la Corte Costituzionale faccia o meno abbia il coraggio, diciamo così, di prendere una decisione che scavalca il Parlamento. Sì, che sia l'autoapplicativa, chiama in termini, diciamo, più o meno tecnici. Sì. Non so se questo però sarà possibile, e in ogni caso il Parlamento poi dovrà fare qualcosa, quindi vediamo. Secondo me il vero tema è la battaglia che sta sotto, dentro il Partito Democratico, tra Renzi e Gentiloni. Cioè, Renzi vuol votare subito e Gentiloni giustamente sta là e dice: io non... L'ha detto, ieri l'ha detto. Non ho nessuna intenzione. Ieri è nato un altro candidato, anche Emiliano. Esatto, c'è un candidato alla segreteria. Cioè, mi pare che le complicazioni siano tutte, come sempre, nel grande campo della sinistra. Pietrangelo Saramino. Giugno o non giugno? Insomma, giugnano le elezioni a giugno per come desidera Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio, oppure il conte Paolo Gentiloni Silveri avanza ben oltre l'aurora? Signor conte, il giorno avanza. Domani domani la decisione della Corte Costituzionale sulla legge elettorale. Intanto il Presidente del Consiglio, in sfacciata discontinuità con Matteo, invece che giugnare, ci prende gusto, vara una serie di nomine per far durare il governo e portare a scadenza naturale l'attuale esecutivo. Povero Matteo Renzi, si pregustava di farsi il G7 a Taormina, bulleggiare coi grandi della terra tra le bellezze al bagno a Naxos, a Giardini, all'Isola Bella, e invece no, ci va il conte Paolo Gentiloni Silveri. Povero Matteo Renzi, si pregustava di farselo tutto, il lungo e il largo, il gran patto del Nazareno con Silvio Berlusconi, invece no, adesso gli vota contro. E che succede? Fa saltare l'accordo per stabilizzare il governo portando all'Agicom un forzista e poi anche il senatore Luigi Zanda alla guida della prima commissione. Ma quindi ci chiediamo, domanda che ci domandiamo, giugno o non giugno? Giugnano al fine le elezioni a giugno? Domani la risposta della Corte Costituzionale. Se ci saranno nella legge i capolista bloccati, cioè nominati dalla segreteria, Renzi potrà quindi giugnare, avrà potere di garantire lo stipendio a Chicche e pure a Sia. Altrimenti, più che giugno, caro Giovanni, luglio, ma per andare al mare, altro che votare. Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Ai ai ai ai. Giovanni, allora c'hai un'altra... Sì, no, però ti posso fare una domanda? Fammela. Io sono talmente col morale sotto i tacchi vedendo questo grande dibattito italiano. Ma il PD può permettersi di ammazzare un altro governo, un suo altro governo? Cioè, questo... E giugnano. Cioè, no, il PD non credo che possa permetterselo, cioè, però ha fatto tante cose che non si poteva permettere la politica italiana. E quindi mi pare che se ragioni sempre sulla logica del cortile, non riesci neanche a vedere la fattoria. Hai citato il cortile? Hai citato il cortile? Vai. Prima una canzone meravigliosa che non è da cortile, poi il cortile. Remember those walls of beach, baby, they're tumbling down. Didn't even put up a fight, you didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had down. La senti questa voce, questa si chiama Laura Pergolizzi ed è una cover di Beyoncé. Alo, senti che cosa. Every rule I had you breaking is the risk that I'm taking. Allora la cover è migliore dell'originale. E questo è un fenomeno destinato a cambiare per un bel po' lo scenario della musica globale, direi, perché è una potenza della natura. Senti ancora un po'. Bene, di fronte a questa meraviglia, noi abbiamo il cortiletto, non il cortile come tu dicevi. Avete visto cosa sta succedendo là fuori, avete sentito il presidente Prodi, il mondo cambia, Trump sta rivoltando il commercio, la Cina diventa l'alfiere del globalismo, Adam Smith si è trasferito a Pechino e l'uomo Davos è in crisi di identità. Il Parlamento italiano, caro Giovanni, di fronte a questo sottosopra non si fa cogliere impreparato. Per fortuna. Ecco l'ordine del giorno di oggi della Camera dei Deputati. Discussione sulle linee generali della proposta di legge. Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il rimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Ce l'abbiamo un treno che passa? Non ce l'abbiamo, non fa niente. E l'Italia ciuf ciuf, Giovanni. Nessuno la salverà, credimi. I pendolari hanno i loro problemi sì, da risolvere. Nelle zone turistiche. Li affrontano con così. I binari Pietrangelo, in Pietrangelo, Pietrangelo, ci fai sentire la canzone che non abbiamo sentito all'inizio? Eccola. Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia di abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. canzoni che parlano d'amore. E allora senza grazia, gambe larghe, se ne stava la paura ad aspettare la gente al mattino, stamattina al risveglio, e ad ognuno largiva la vanitosa modestia dell'incertezza. C'era pioggia, c'era neve, e però hanno chiamato tutti i mulini a vento, hanno richiesto questo brano con una dedica a Don Chisciotte. E intanto noi ascoltiamo invece che cosa ci racconta il professor Roberto Bernabei con le sue notizie dalle più importanti riviste di medicina del mondo. Grazie. Medicina, le frontiere della ricerca. Proceedings of the National Academy of Science, ottobre 2016 e Aging, settembre 2016. Le misure biologiche dell'invecchiamento umano acquistano credibilità. Molti studi negli animali e nell'uomo hanno dimostrato che un componente della cellula, il telomero, che è nella parte finale della cellula, predisce malattie e mortalità. Insomma, ci informa sulla nostra età biologica, che non è necessariamente la stessa dell'età cronologica. Lo stesso fa la cosiddetta metilazione del DNA, che riflette i cambiamenti avvenuti nel nostro patrimonio genetico nel corso della vita. Sappiamo che gli stili di vita, infatti, influenzano anche il patrimonio genetico. In due studi, allora, sono state valutate da vicino queste due misure per capire se avessero un correlato che ci predicesse il futuro ammalarsi e la futura mortalità. Nel primo sono correlati gli avventi avversi della vita di 4.600 persone con la lunghezza dei telomeri di ghiandole salivari. Più lungo il telomero, più si dice che è lunga la vita, più corto il telomero, meno lunga è la vita. E si è visto che chi è che aveva avuto violenze nella vita da ragazzo aveva i telomeri più corti, predicendo così una vita più breve. E questo più di eventi finanziari avversi, cioè a dire che non è tanto un evento fuori dalla vita come un crollo economico, ma è un evento che ti colpisce dentro, come una violenza ricevuta da bambino, che influisce poi su tutto il corso della vita. Nel secondo studio, 13.000 persone di varia etnia sono stati testati per la metilazione del DNA e si è rivelata questa metilazione capace di predire la morte più dell'età cronologica. Di fatto, quindi, cominciamo ad averci dei test che ci dicono come sta andando e quanto abbiamo ancora di riserva nel nostro serbatoio, quanto camperemo ancora. Dopo la pubblicità, 17 anni dalla sua morte, quella di Bettino Craxi ad Amamet, ripercorriamo la sua vicenda umana e politica. Ma intanto, che cosa ha scelto Gloria Guerrera oggi per noi? Oggi una canzone per chi si mostra per quel che è, senza maschere e senza veli. Mina nuda. Con la mia testa io vi conquisterò, io vi strabilierò. Con mille qualità io ridere farò, coloro che tra voi non hanno riso mai, gridare li farò. Io vi farò godere le pene dell'amore, io vi innamorerò parlandovi di me, di come so piacere mettendomi ad amare, di quello che so fare in mille modi e più. E per chi vuol vedere le gambe, il mio sedere, vestiti trasparenti li accontenterò, io vi accontenterò,